il gap di chi ha l'accesso a internet è ancora del 50% circa, e anche un problema politico molto serio relativo a bambini e bambine con genitori senza permesso di soggiorno, perché sostanzialmente avevamo visto che inizialmente era proprio impossibile per queste persone iscrivere i propri figli e le proprie figlie a scuola, poi avevamo visto che il ministero aveva detto che lo potevano fare col cartaceo, ma sostanzialmente, come sempre poi succede in questo paese, la notizia scompare e noi non sappiamo se c'è un decremento delle iscrizioni di chi si trova in questa situazione o no. Abbiamo segnalato il problema, ma poi, come è finita la questione, sarà ben difficile venirne a capo, a mio parere. E detto questo, rispetto alle iscrizioni ci sono da ricordare alcune cose. Innanzitutto che noi consigliamo di non avvalersi dell'ora di religione cattolica. Detto questo, invece, vorremmo parlare ancora del contributo, del cosiddetto contributo volontario. Sì, perché c'è una notizia da qualche parte che è arrivata a una scuola di Bari. L'abbiamo trovata, insomma, in rete, una notizia che è uscita su un giornale, in cui c'è una circolare che, se la ripeschi, magari la leggiamo, in cui praticamente non si fa menzione del fatto che questo sia un contributo volontario. In realtà non si chiama più così, si chiama erogazione liberale, quella che trovate sul 730, no? Fra le detrazioni, non so se c'è ancora, insomma, quindi una sorta di beneficenza quasi. E però in questa circolare il dirigente o la dirigente, adesso non ricordo, la pretendeva praticamente, non faceva cenno al fatto che fosse liberale, quindi volontaria, e avvertiva che chi non avesse pagato questo contributo, che mi pare era di 130 euro, euro, quindi, sì, ma non poco. E fra l'altro, che tipo di scuola è? Che tre sedi dell'Istituto Tecnico Professionale Mariorana, dei quartieri San Paolo, indirizzo alberghiero e operatore ottico, poi Iapigia, elettronica, audiovisivo e palese, tecnico, chimico, alimentare e fotografico. Quindi si tratta di un professionale. Le professionali, insomma, è inutile negarlo, sono scuole dove accede un tipo di popolazione scolastica che non è che proviene da famiglie facoltose che scelgono altri tipi di indirizzi, sono scuole, insomma, dove poi ti prendi questo diploma triennale o quinquennale e si spera che poi trovi lavoro. Quindi, insomma, sono famiglie che certamente non hanno grandi mezzi. Ma il discorso, la cosa peggiore è che si diceva che non erano previste esenzioni e che chi non pagava questo contributo non sarebbe stato ammesso alla classe successiva o alla prima classe. Insomma. Sì, precisamente nella circolare che ho ritrovato, era una notizia di Repubblica di Bari, dice: si comunica che è appunto una circolare a firma della dirigente scolastica Paola Petruzzelli di questo grande istituto professionale. Si comunica che entro e non oltre il 28 febbraio dovranno pervenire alla segreteria di questo istituto le iscrizioni per l'anno scolastico 2013-2014, debitamente compilate e complete di ricevute dei versamenti effettuate. Tutte le domande non complete non saranno accettate e non produrranno l'iscrizione. Si rammenta che dovranno essere presentati anche certificati medici. Si precisa che a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 l'importo da versare come contributo scolastico sarà di 130 euro e che non sono previste richieste di esonero, dice letteralmente la circolare di questo istituto di Bari. Sì, voglio dire, è una cosa veramente stupefacente, nel senso che già nelle scorse trasmissioni avevamo un po' analizzato quello che era l'atteggiamento delle scuole rispetto al contributo volontario e alla pubblicità da dare al contributo volontario, la pubblicità corretta, e avevamo anche ricordato che rispetto a questo c'è stata anche una circolare del MIUR che stabiliva proprio l'esigenza di segnalare e manifestare la volontarietà del contributo, e analizzando questo, diciamo, avevamo rilevato come in molti casi, almeno in casi a noi noti, la tendenza fosse spesso quella di tacere l'aspetto della volontarietà del contributo, ma certamente a affermarne la necessità è tutt'altra cosa, insomma, cioè affermare che non verranno prese in considerazione domande di iscrizione a scuola che non siano corredate della ricevuta di versamento del contributo volontario è una cosa che veramente fino a questo momento non avevo mai sentito. Poi considerate che, per esempio, sono andata adesso a controllare sul sito della mia scuola, che è un liceo classico del centro di Roma, molto ben frequentato, come si dice, il contributo richiesto è di 100 euro, l'erogazione liberale, quindi insomma c'è veramente una sproporzione grossa. Sì, ma perché qui bisogna arrivare a mio parere ampliare un pochino il discorso e vedere che quello che si paventa o si paventava come quello che sarebbe stato una delle conseguenze della cosiddetta ex Aprea, cioè la divisione tra scuole di serie A e scuole di serie B, di fatto esiste già, a mio avviso esiste nei fatti, non nella legge, esiste nei fatti, perché in scuole, come appunto si diceva poc'anzi, ben frequentate, i soldi in qualche modo arrivano dai genitori che sono che rappresentano un altro tipo di classe sociale, arrivano dalle case editrici, arrivano anche dagli enti locali, che insomma si fanno come dire più belli a ristrutturare un liceo classico del centro di Roma che non il professionale o anche il liceo di periferia, che non vedrà mai nessuno se non chi ci va a scuola, appunto. E quindi di fatto, nel momento in cui si rompe l'unitarietà del sistema scolastico statale e i soldi non arrivano più nello stesso modo, poi vabbè, insomma, gli edifici dipendono dagli enti locali, eccetera eccetera, di fatto questa situazione si crea e si arriva al paradosso che sono più alti i contributi richiesti nelle scuole che sono in quartieri dove ci abitano persone meno abbienti, frequentate anche insomma da classi sociali più basse, che non il contrario. L'altra cosa che ci tengo a dire è che non vogliamo con questo esempio di Bari fare il caso della mela marcia, cioè nel senso, sì, lo diciamo, è un caso, è vergognoso, è un caso specifico, ma è anche il sintomo di una tendenza. Cioè non è che ora questa cosa è venuta fuori perché l'Unione, l'UDS l'ha, come dire, denunciata ai giornali, ne ha fatto un caso pubblico. Probabilmente non sarà l'unico in Italia in cui è già così, ma quello che è ancora più importante è che si sta andando verso questo tipo di concezione. In ogni istituto bisogna stare attenti al dirigente, alla dirigente, cosa scrive quando chiede questo contributo, perché questo aggettivo volontario finisce spesso per sparire e soprattutto, siccome è scomparsa abbastanza l'idea del diritto allo studio, sono le persone stesse, le stesse famiglie a volte che ti dicono: ma che problema c'è se mi chiedono 100 euro? In fin dei conti io alla scuola di mio figlio o di mia figlia ci tengo. Il bastian contrario, io non credo che sia il problema di, cioè, una cifra di 100 euro spalmata su 9 mesi. In realtà, se ci pensi, poi in fondo non è quello il problema, semmai sarebbe giusto intanto chiarire bene e poi una proporzionalità, no? Cioè che ognuno, come dovrebbe essere, forse è scritto pure sulla Costituzione, dovrebbe contribuire a seconda delle proprie possibilità. Vabbè, in un sistema fiscale come il nostro questo può ridere, però di fatto credo non sia questo il punto. Il punto è proprio quello che dicevi anche tu. Intanto, per esempio, il fatto che non si aumentano le tasse, quelle, no, che si pagano col bollettino intestate all'ufficio del registro, però di fatto si aumentano in quest'altra maniera un po' così subdola. E poi perché tutto è lasciato veramente, cioè, a una gestione selvaggia, laddove appunto le scuole più quotate, quelle che hanno magari all'interno i genitori professionisti che stanno dislocati, e vi giuro che non è una fantasia, dislocati in punti chiave magari della provincia eccetera, guarda un po', i lavori glieli fanno, certo, vabbè, come glieli fanno, comunque le cose vanno avanti. Le scuole dove i genitori invece sono di un'estrazione diversa, siccome in Italia funziona così, quelle rimangono al chiodo e quindi sono magari costrette, fra virgolette, a cercare di arrangiarsi aumentando proprio il suo contributo. Sarebbe splendido amare riprendiamo un attimo solo proprio per concludere questo discorso. Ricordiamo che il 28 febbraio, quindi dopodomani, è l'ultimo giorno per poter effettuare l'iscrizione online, ma secondo me con sta fame di iscrizione di alunni che c'è in molte scuole non credo ci saranno problemi poi a venire col cartaceo, comunque può essere che mi sbaglio, comunque insomma l'importante è iscriversi da qualche parte, poi al limite si chiede il nulla osta e ci si sposta, insomma non credo che verranno poi, questo serve a fare l'organico di diritto che abbiamo spiegato forse altre volte, è quello che si basa appunto sul numero delle iscrizioni fatte in questo caso entro febbraio, dopodiché ovviamente con le conferme che verranno fatte soprattutto per quanto riguarda ovviamente le prime classi di ogni ordine di scuola si andrà poi a determinare il cosiddetto organico di fatto, ovvero quello che è effettivamente il numero di alunni e quindi di conseguenza il numero degli insegnanti. Allora, una notizia interessante di pochissimi giorni fa è quella di un risarcimento, un record avuto da un precario di Trapani. Questo insegnante di educazione fisica e sostegno ha vinto la causa contro il ministero ed è stato risarcito con 150.385 euro. È una cosa molto interessante perché gli è stato riconosciuto un danno perché è rimasto precario su posti vacanti e con un avendo un contratto da precario da settembre a giugno. Ora molti gli insegnanti che ci sentono sanno, i precari soprattutto, sanno perfettamente che possono all'inizio dell'anno vincere la lotteria e quindi ottenere una supplenza annuale che può durare fino al 31 agosto e, su posti liberi, oppure un altro tipo di supplenza è quella sempre annuale ma fino alla fine di giugno. Ora questo insegnante per 6 anni, dal 2005 al 2011, ha avuto una supplenza su un posto libero soltanto fino a giugno e quindi diciamo da luglio-agosto ritornava a essere un disoccupato e il giudice del lavoro di Trapani gli ha riconosciuto non soltanto quindi diciamo gli stipendi estivi mancati per questi 6 anni ma anche un danno. La novità che poi porta a questa cifra record di 150.000 euro netti di indennizzo riguarda anche il fatto che il giudice ha riconosciuto, come dire, anche un risarcimento anticipato degli stipendi relativi all'estate future, ai prossimi contratti che lui riceverà probabilmente nelle stesse condizioni. Beh, questo diciamo non è la prima volta che succede una cosa del genere, nel senso che i precari dovrebbero, come dire, battere questa strada perché alcune sentenze anche a livello comunitario stabiliscono che se c'è un posto vacante, nel senso se il posto è libero, quel posto deve essere rimpiazzato, occupato, e anche se c'è la Costituzione che prevede che nella pubblica amministrazione ci debba essere un concorso per ottenere quel posto, è in debito che lo Stato si avvalga di lavoro precario invece che stabilizzare, che riempire un posto libero. Quindi questo ritengo che sia un precedente molto importante. Comunque ci sono sempre, adesso in questo momento no, ma insomma no, si sente, sì. I concorsi ti davano l'idoneità, ma ovviamente gli assunti erano quelli che arrivavano al posto, vabbè, ma avete capito insomma. cioè ci sono tot posti, la graduatoria scorre fino a coprire i posti, ecco, ci sono riuscita, ma gli altri non è che non hanno vinto, che non sono idonei, quindi una volta si scorreva la graduatoria del concorso, quindi non è un ostacolo questo lì che c'hai un posto e devi fare il concorso. Ci sono stati negli anni passati, l'abbiamo detto altre volte, adesso sono molti molti di meno, posti che venivano coperti da precari fino al 31 agosto perché erano posti effettivamente vacanti, dove non c'era un titolare, quindi è il caso proprio classico di quello che dicevi tu, insomma. Invece si gioca, perché è il discorso delle esternalizzazioni, della precarizzazione smodata, per cui alla fine io intanto mi tengo questo per 15 anni a stipendio iniziale, poi domani chissà, magari quel posto non c'è più e quindi ho risparmiato, insomma, ecco qual è la sostanza. Sì, cioè di fatto è quello di cui hanno sofferto sostanzialmente tutti i colleghi precari che abbiamo ricordato così spesso e che adesso sono impegnati nel concorso, perché quei posti su cui loro hanno lavorato da precari erano posti vacanti, in parte almeno, loro non sono stati stabilizzati su quei posti e poi quei posti sono stati messi a concorso dando ad altre persone la possibilità di accedere, creando un nuovo canale per concorso pubblico, che dovrebbe essere la modalità preferenziale per entrare nello Stato, ma evidentemente non quando ci sono liste di precari che lavorano su quei posti disponibili. Sì, precari che hanno già superato un concorso, quindi appunto non c'è l'ostacolo che si diceva prima, perché di fatto l'hanno già superato. E è giusto anche ricordare che essere precario o precaria nella scuola, sotto tutta la pubblica amministrazione, significa appunto per lo Stato un grosso risparmio, perché queste persone rimangono sempre allo stato iniziale dello stipendio, anche se ora, essendo che c'è il blocco degli scatti, il blocco del contratto, il blocco di tutto, praticamente è così anche per molte insegnanti di ruolo entrati negli ultimi anni, lo dico per esperienza personale, e oltre a questo, insomma, significa anche tanti altri disagi. Insomma, il primo tra tutti, ovviamente, come per tutti i precari e le precarie di qualunque tipo di lavoro, non sapere se domani lavorerai. Questo è evidente che è il disagio più grande. Sì, allora poi va considerato rispetto al blocco pure degli scatti, che chi è passato di ruolo, come si diceva una volta, ma per capirci, 2 anni fa, che c'è stata l'ultima infornata sia come personale non docente che come docenti, ha firmato contestualmente al contratto una dichiarazione in cui rinunciava alla progressione di carriera così come era concepita prima, cioè il primo scatto era dopo 2 anni, e invece qui adesso non voglio essere imprecisa, ma insomma si spostava in avanti. Su questo poi le persone hanno giustamente firmato, perché era, questa è una cosa sì che è passata molto sotto silenzio, hanno firmato perché ovviamente era una condizione sine qua non per avere accesso appunto alla stabilizzazione, però poi hanno fatto dei ricorsi e non sappiamo che fine hanno fatto, quindi questo è un altro discorso, è stata proprio una sorta di taglieggiamento legalizzato. Ma non finiscono qui i problemi dei precari, di chi ancora riesce a mantenere un posto di lavoro, insomma, per quanto appunto precario, perché c'è stata adesso questa grande novità del cedolino unico, ovvero del fatto che gli stipendi dei supplenti temporanei sono passati direttamente alla gestione del Ministero del Tesoro, quello che ci paga gli stipendi non solo a noi a tempo indeterminato, ma anche a tutte e tutti i supplenti annuali, mentre fino all'anno scorso i supplenti temporanei venivano pagati dalle scuole con fondi che venivano erogati dal Ministero e che però negli ultimi anni sono stati sempre erogati di meno e soprattutto con molto ritardo, per cui insomma ci sono state anche cause di qualche precario che ha perché appunto era stato pagato in ritardo. E rispetto a questo si è determinata però una situazione di passaggio che c'è adesso quest'anno, nella quale c'è una doppia gestione, ovvero le segreterie devono inserire nel sistema telematico della pubblica istruzione, che è insomma, che è questo SIDI, ovvero questo portale su cui si fanno un sacco di belle cose, e devono inserire praticamente il contratto, come si fa già da diversi anni per i contratti annuali, ma per tutto il 2013 ci sarà una doppia gestione, cioè si dovrà fare sia questo lavoro sia mantenere poi il vecchio sistema, quello con il quale le segreterie amministravano e pagavano i supplenti temporanei. Questo ha determinato, noi abbiamo un articolo del Fatto Quotidiano di ieri che prende come fonte la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL, altisonante nome che insomma poi lascia il tempo che trova, e per cui dice che addirittura sono 75.000 supplenti della scuola pubblica che non hanno stipendio. In realtà, per quello che ne so io, per quanto riguarda i supplenti annuali, non mi sembra che ci sia stato un problema. Mentre almeno nella mia scuola non mi è stato segnalato, mentre sicuramente per i supplenti temporanei c'è stato, perché i fondi non sono stati erogati a sufficienza dal Ministero e perché probabilmente ci sono stati anche dei problemi per la gestione di questa nuova modalità. E quindi, senza farla troppo lunga, comunque sì, c'è sicuramente un gran numero che non siamo in grado di quantificare di supplenti temporanei che non ha, da qualche mese non ha lo stipendio, tant'è vero che il Ministero è stato costretto a fare delle emissioni speciali, e l'ultima insomma dovrebbe essere messa in pagamento adesso, fra un po'. Fra l'altro non c'è stato nessun tipo di formazione ufficiale, no? Insomma, quando si implementano cambiamenti così grossi, forse sarebbe il caso insomma di organizzare, per quanto pure lì è un altro capitolo doloroso, insomma dei momenti di formazione. Loro ti schiaffano il manuale sul sito, tu insomma devi 80 pagine e t'arrangi, ma questo un po' per tutte le cose. E invece quello che va detto è che tutta una pletora di associazioni non meglio identificate, che fanno capo anche a gestori per esempio di vari portali con i quali privati con i quali le scuole si supportano un po' in tutta la loro amministrazione, hanno dato vita a questi corsi d'aggiornamento a pagamento nei quali sguazzano sia funzionarie del Ministero del Tesoro, sia anche per esempio direttori amministrativi in pensione che invece appunto poi si dilettano in questo modo, cioè pure un giro di soldi, concorsi. Io sono stata a uno di questi, ma sinceramente dopo 4 ore non ce l'ho fatta più, perché quando metti 500 persone tutte insieme con uno schermo eccetera, con una massa di informazioni che ti arrivano così, è veramente complicato capirci qualche cosa, insomma. Sì, a quanto sembra di capire anche da quello che tu dicevi, questa sembra essere un'altra delle numerose storture della spending review, perché leggendo l'articolo, il cedolino unico, l'introduzione del cedolino unico è legata appunto alla spending review, a cui sono legate tutta una serie di altre innovazioni connesse al processo cosiddetto di dematerializzazione della scuola, come per esempio le iscrizioni online a cui facevamo cenno prima, e come per esempio in molte scuole il registro elettronico, a cui mi piacerebbe poter dedicare poi in futuro anche un minimo di attenzione, e così via. Certamente questo fatto che questo tipo di innovazioni nella scuola siano avvenute senza nessun tipo di formazione nei confronti del personale di segreteria, nei confronti del personale docente, dando vita a forme di speculazione anche da parte delle società private che hanno in appalto e in gestione i servizi, è effettivamente un altro aspetto dello slittamento che la scuola pubblica, in generale il pubblico, sta affrontando rispetto appunto all'ingresso dei privati in tutte quante le forme. Pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, queda de así, sentada a la orilla del mar y las manos, llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la la la. Manito con su guitarra, tú estás. estaba dormida bajo la luna, tú estabas feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, te quiero, chiquita, preciosa niñita. Piccola, piccola, piccola, pico, pico, pico, pico, piccola mía. El sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma en paloma, vida, alegría, tú cantas consuelo, tú cantas esperanza, tú cantas remedio. Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, piccola. Allora, passiamo a un altro argomento, e come dire, un argomento che riguarda il turismo, o meglio i viaggi di istruzione, le gite scolastiche, chiamate come volete. Alla conferenza stampa sul turismo scolastico, la FIAVET Lazio, la FIAVET è la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, lancia l'allarme. Il protrarsi del blocco delle attività extracurricolari del personale, forma di protesta contro le disposizioni del governo sulla scuola, sta paralizzando il settore, dice FIAVET, e propone, sempre FIAVET, al nuovo governo, cioè quello che non ci sarà mai sostanzialmente, pensiamo, comunque al nuovo governo propone, perché questo l'hanno scritto prima di ieri, quindi ancora, di ripristinare l'indennità di missione per i docenti, e questa è già una cosa che evidentemente la FIAVET non sa di che parla, perché l'indennità di missione erano i soldi che venivano dati a ciascun docente per andare in gita scolastica, quella più di un giorno, erano 7 euro al giorno, sono stati tolti anche quelli, il che, per l'amor del cielo, è scandaloso che tu non mi dia nemmeno una lira in più per stare in servizio sostanzialmente 24 ore su 24, però non è che con quei 7 euro si rimediasse al vulnus, diciamo, ecco, non credo che sia questo il motivo per cui non si vanno a fare viaggi di istruzione. Sicuramente non è questo il motivo, perché insomma, più o meno poi i docenti hanno continuato a farli questi viaggi. No, qui loro danno proprio la colpa, la FIAVET dà la colpa alle mobilitazioni dei docenti, cioè al fatto che la mobilitazione partita sostanzialmente contro le 24 ore frontali e su altri argomenti, che ha bloccato i POF, di cui abbiamo parlato più volte da questi microfoni, una delle cose che ha bloccato in maniera più stabile sono stati proprio i viaggi di istruzione, e FIAVET, cioè insomma le organizzazioni del turismo, si lamentano che, dice, le proteste si sono moltiplicate in questi anni nelle scuole fino a raggiungere il culmine in questo anno scolastico che stiamo vivendo adesso. Le conseguenze anche nelle scuole stesse si fanno sentire, si parla addirittura del 70%, di un crollo del 70% dei viaggi di istruzione. Sì, è vero che la FIAVET dà la colpa esplicitamente alle proteste, al blocco del POF eccetera, però poi di fatto chiede di ripristinare l'indennità di missione, perché evidentemente comunque sia ha presente in qualche misura qual è il problema, cioè il problema è anche, oltre al blocco del POF, è anche che quando tu accompagni insegnante una classe in gita, lavori 24 ore su 24 invece di lavorarne 3 o 4, 5 o 6 o 8 al giorno, e hai la responsabilità di fatto dei ragazzi che ti sono affidati, firmi un obbligo di vigilanza e così via, e questo per neanche un euro in più, e quindi diciamo questo crea tutta una serie di problemi, crea tutta una serie di problemi che peraltro inducono spesso molti presidi quasi a diciamo obbligare o stimolare in maniera molto convincente gli insegnanti a accompagnare le classi in gita di istruzione. Cioè, ci sono per esempio casi in cui ci sono presidi che all'inizio dell'anno chiedono una dichiarazione scritta e motivata per chi decide di non accompagnare le classi in viaggio di istruzione. E io ho presenti casi di qualche anno fa di presidi che hanno fatto ordini di servizio per accompagnare, per costringere di fatto insegnanti ad accompagnare i ragazzi in viaggio di istruzione. Che qui è partita la sigla. Che anche se per esempio da noi non è successo questo, ci sono state sì pressioni, ma non veri e propri ordini di servizio. Però pure su qui ormai è tardi, ma si potrebbe pure aprire proprio una grande finestra sul fatto che vengano chiamati molto impropriamente in molti casi viaggi di istruzione, sì, perché sono, ma spesso viaggi di distruzione, almeno a sentire i gestori degli alberghi, ma comunque sono giovani, come diceva un segretario mio di tanti anni fa, hanno l'argento vivo, quindi bisogna che gli date un occhio di più. È che nella mia scuola addirittura si verificava una specie di questua due giorni prima di partire, ma anche fra personale non docente, che a questo punto, cioè, magari ipoteticamente potrebbe pure sapere illustrare tutto il contenuto del Museo del Prado di Madrid meglio magari di qualcun altro, però a questo punto non si capisce, vai a fare il cane da guardia, sì, e basta. Poi è veramente proprio avvilente, no, questo fatto, questa specie di ricerca di qualcuno che due giorni prima via e se ne va per cinque giorni da qualche parte. E c'è stato chi comunque l'ha accettato, ci sono stati, insomma, colleghi e colleghe che poi ci sono andati ben volentieri, perché a quel punto, soprattutto se si tratta di ultima classe, sono maggiorenni, per cui lì la vigilanza già è qualcosa, cioè te vedi la sera all'albergo e poi tutti in discoteca. No, in realtà sì, è proprio questo il punto, cosa sono diventate le cosiddette gite di istruzione o distruzione nella scuola. Non sono più quello che forse molti di noi ricordano, no, come uno dei momenti formativi, forse quello più interessante, più divertente, ma che vedeva forse accorciata la distanza tra un insegnante e classe, con una finalità però alta, diciamo didattica. La meta era scelta forse anche dallo stesso insegnante, che poi si rendeva disponibile ad accompagnare, sapeva dove andava. Era lui che descriveva, faceva lui la guida, lei la guida in questi veri e propri viaggi che poi ognuno di noi può ricordare, no? Ricorda. Adesso queste gite di istruzione hanno perso tutta questa valenza e dunque serve esclusivamente qualcuno che accompagni e che formalmente si prenda la responsabilità per 24 ore, per 4-5 giorni, anche una settimana, di 20-30, una banda di scalmanati che non vede l'ora di andare, non so, a Barcellona piuttosto che Praga, piuttosto che il cosiddetto campo scuola, no? Che è un'eredità nel loro linguaggio, nel linguaggio dei ragazzi delle elementari e delle medie. Quindi vanno a Parigi, al campo scuola di Parigi, ora non lo so dove, in quale giardino di Londra facciano riferimento, perché io dico, vabbè, cosa scavate, cosa piantate in questo campo scuola, perché c'è questa idea che comunque si sta all'aria aperta e più o meno tentando di pure seminare la professoressa o il professore per le vie di questa città straniera parlando in italiano ovunque si trovino, e quindi non c'è più alcun motivo perché queste cose, nonostante, come dire, le lamentazioni, diciamo, questi pianti della situazione delle agenzie di viaggio, perché io ho questa idea che rimanga in piedi questo tipo di viaggio, e ci sono dirigenti che si lamentano del fatto che la scuola è diventata appunto il suo mestiere, anzi è quello di mediare tra agenzie di viaggio, prezzi che devono essere sempre più scontati, più abbassati, perché altrimenti si lede il diritto della classe, e regolamenti sui viaggi di istruzione che vengono elaborati sia dal collegio docenti anche dal consiglio d'istituto, che cambiano ogni anno, si adattano ai cambiamenti, ma sempre l'obiettivo è di farvi divertire i ragazzi, perché altrimenti la scuola, il buon nome della scuola ne risente. Sì, infatti diciamo che quello dei viaggi di istruzione è diventato un altro aspetto di quella che è un problema che altre volte abbiamo sottolineato, e cioè il fatto che molto spesso le scuole abbiano bisogno di una vetrina, sostanzialmente di una vetrina di attività, che è quella dei progetti del POF, che vengono resi dal punto di vista di chi li propone, di chi li attua, di chi li gestisce, sempre più concorrenziali e sempre più diciamo attrattivi rispetto alla quella che viene chiamata l'utenza. E alla stessa maniera si cerca di sollecitare, di in qualche modo blandire e accontentare i ragazzi in quelle che sono le loro richieste rispetto ai viaggi di istruzione, che non hanno più nessun tipo di connessione con una progettualità diciamo così didattica, o comunque non hanno più il carattere di un'esperienza culturale. E io personalmente insomma ho presente campi scuola appunto all'aperto fatti in villaggi turistici, dove i ragazzi di fatto vanno in posti anche meravigliosi, ma passano tutto il loro tempo nel chiuso del villaggio turistico a fare attività più o meno sportive, tipo la barca a vela piuttosto che ne so il golf o il tennis. Sì, sulle gite scolastiche, insomma, sui viaggi di istruzione mi preme di dire insomma anche due aspetti abbastanza puntuali. Uno, che esiste ancora una normativa per cui ogni 15 ragazzi ci deve essere un accompagnatore o un'accompagnatrice per legge. Questa normativa, per quanto mi è stato dato di vedere a me, poi lo 06 49 17 50 per smentirmi o raccontare altro, questa normativa molto spesso viene evasa dai dirigenti scolastici, perché per tutti i motivi che raccontiamo sempre in questo spazio radiofonico non hanno personale per sostituirli, eccetera eccetera, e quindi di fatto si va con 30 ragazzi, un solo insegnante, una sola insegnante, che sinceramente lo ritengo anche piuttosto pericoloso come pratica, oltre al fatto che insomma ripeto e va contro la normativa. Succedono spesso problemi in una gita scolastica, può succedere di tutto, tanto più che spesso si va lontano, insomma non si va a Viterbo da Roma, si va normalmente a Praga, ecco. Sì, se mi permetti di interromperti un attimo, credo che rispetto a questo problema venga meno la copertura assicurativa se non è rispettato l'obbligo di un insegnante oltre per 15 ragazzi, quindi bastano 16 ragazzi o 17 con un insegnante, che creano un grosso problema. Per cui qui parlo a chi ha dei figli, delle figlie che vanno a scuola, se vanno in viaggio di istruzione contateli gli accompagnatori e le accompagnatrici, perché i tagli vengono fatti anche su questo. L'altra cosa che volevo sottolineare è che queste gite, per quanto si cerchino le offerte più stracciate e quindi in genere si va in degli alberghi schifosi, si mangia molto male, non c'è compreso il biglietto magari al museo più rappresentativo della città, eccetera eccetera, nonostante tutto ciò, siccome si sta fuori 5-6 giorni, si va all'estero, eccetera, sono molto care, cioè nel senso che vanno spesso, parlo per le viaggi di istruzione di un triennio delle superiori, si parla di 300-400 euro a viaggio di istruzione solo per viaggio, albergo. Più quello che gli devi dare, perché io mi ricordo una volta mia figlia partì con uno zaino pieno di cose da mangiare, perché in una gita precedente ha fatto la fame, per cui sì, è portata un po' di roba da mangiare. Più quello che gli devi dare. Quindi succede molto spesso che i ragazzi e le ragazze non vadano in gita, per cui tu hai una classe che in cui se va bene 2/3 è in gita, 1/3 è in classe. A volte queste proporzioni vengono anche scavalcate, si parla di metà gita, metà classe a casa, eccetera. Allora tutto ciò a mio parere è veramente indecente. Si fa una gita più breve, più vicina, ci si va tutti e tutte, anche perché io credo che le frontiere, bisogna sempre ricordarsi qual è il nostro obiettivo, anche se non è raggiungibile. Cioè io credo che una scuola degna, pubblica, degna di questo nome, dovrebbe fare gite scolastiche che l'istituzione stessa è in grado di pagare, in modo che tutti e tutte possano partecipare in maniera senza nemmeno andarsela a contare questi soldi in tasca. Ora è evidente che questo non succederà, però tra questo e andare 8 giorni a Praga o 8 giorni a Berlino o a Londra, insomma ci sono anche delle vie di mezzo, e i ragazzi e le ragazze si divertono anche altrove, cioè nel senso non è che vogliamo togliere la parte del divertimento, della socializzazione agli studenti e alle studentesse, vogliamo togliere invece alla Fiavet un motivo di lucro sull'istruzione dei ragazzi e delle ragazze. A me sembra che sia questo, ecco, il problema. Sì, poi comunque siccome poi le destinazioni, diciamo il quadro complessivo delle gite, chiamiamole così, e lo si fa il consiglio d'istituto, lì allora è facile che una classe che magari perché si accorpano, già ne si mandano due classi, che vorrebbe andarsene in un posto in Italia, magari poi il rappresentante, il docente che invece va andato da un'altra parte sta in consiglio d'istituto, e quindi passa quell'altra cosa, cioè non è comunque un modo democratico di decidere le destinazioni, insomma. Sì, siamo in chiusura e quindi vi invitiamo a riflettere su quello che sarà il tema della prossima trasmissione martedì prossimo, che è appunto il tema della valutazione del merito dentro la scuola, di cui abbiamo già parlato. E l'occasione è data dal fatto che dal 1 marzo al 30 aprile in 400 scuole italiane, 200 scuole medie e 218 scuole superiori, partirà questo studio sul nostro ruolo, diciamo, su cosa va o non va nella scuola, nel ruolo dell'insegnante, nel rapporto tra insegnante e dirigente scolastico, e su il profitto, diciamo, i rendimenti, i risultati della scuola. E, è un'inchiesta, diciamo, promossa dall'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, quella che invita a fare test in VALS, eccetera eccetera, e che 5 anni fa ha già riguardato 300 scuole medie. I risultati di questa indagine su 300 scuole medie 5 anni fa li potete leggere sul sito del MIUR, del Ministero, Talis 2008 si chiama, e i risultati sono raccapriccianti, e da lì partiremo la prossima trasmissione. Detto questo, l'ora di buco vi saluta, lavoratrici e lavoratori della scuola. Vi ricordiamo ondarossa@ondarossa.info, la nostra mail, oradibuco.noblogs.org, il nostro blog. E insomma, ci farebbe molto piacere se martedì prossimo vorrete partecipare telefonicamente a questo discorso, anche e soprattutto se ci sono persone che lavorano in scuole dove questo Talis sarà attivo, e comunque anche invece se volete semplicemente dire la vostra. Detto questo, vi lasciamo al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche di Radio Onda Rossa.